come associazione Pilot in Tank insieme ad altre, a una cordata diciamo di 30 associazioni della regione, le donne femministe, vari centri antiviolenza, abbiamo presentato una lettera formale all'assessore Tonini, visto dell'anniversario della legge, dell'approvazione della legge 194, per chiedere sostanzialmente due cose. La prima è quella di prevedere che tutti i consultori familiari sia data la possibilità di effettuare l'aborto farmacologico, perché ad oggi è possibile farlo in tre sostanzialmente consultori familiari sperimentali a livello regionale. Queste sono informazioni che noi riteniamo dalla relazione annuale che viene fatta dalla regione sullo stato di attuazione della 194. E poi aggiungeremo il fatto che l'aborto farmacologico sia disponibile la seconda fase, perché sono due farmaci da prendere a distanza di 24-48 ore, sia possibile farlo anche a casa, a domicilio. Questo quanto anche contenuto già in documenti ufficiali sia dell'Organizzazione Mondiale della Salute, sono linee guida del 2022, sia in un documento di indicazioni operative dell'Istituto Superiore di Sanità del 2023. Quindi diciamo sono ormai pratiche consolidate e indicazioni dei migliori standard qualitativi elaborati a livello internazionale e nazionale. E quindi chiediamo un'accelerazione formale alla regione sul fatto di rendere possibile diciamo questo accesso, così come ormai è già richiesto e formalizzato da personale medico. Per darvi un dato, questo è sempre contenuto nella relazione annuale regionale allo stato di attuazione della 194, che al 2022 riportava che il 98,2% dell'apporto farmacologico era svolto in regime di day hospital e solo l'1,1 in servizio ambulatoriale. Quindi questo è un dato incredibile che dimostra la necessità di rendere disponibile questo servizio nel formato ambulatoriale. La vedete come una prospettiva possibile? È qualcosa che accadrà? Siete abbastanza fiduciose o gli interessi politici in gioco sono troppi e troppo complessi? No, riteniamo che sia fattibile, anche perché sappiamo, allora intanto anticipo anche che questa sera, cioè il 22 alle 20:30, è prevista anche un'assemblea cittadina al Centro delle Donne di Bologna per condividere informazioni sull'accesso al 194 e discutere anche delle implicazioni della norma, dell'emendamento sul PNRR che già molto canava la possibilità per i gruppi a scelta e anche abortisti di entrare nei consultori familiari. Sappiamo, proprio perché è un'iniziativa che è stata anche condivisa oltre che da associazioni anche da professionisti sanitari, singole donne e anche ginecologhi di Bologna, che proprio oggi era prevista una riunione operativa dei dirigenti del servizio che si discuteva proprio di queste richieste, perché è una richiesta molto sentita anche dal personale sanitario. Involverebbe meno gli ospedali, perché non è solo un tema di diritto di scelta delle donne, di accesso all'aborto farmacologico e anche di facilità, perché l'Organizzazione della Mondiale della Salute ci dice chiaramente che l'aborto farmacologico è la tecnica più agevolata e sicura per interrompere la gravidanza oggi, ma è anche un tema di riduzione di costi sanitari, di efficientamento del servizio, quindi non ha senso farlo fuori in ospedale, e quindi questo vuol dire anche per chi lavora negli ospedali migliorare di molto la situazione, così come per chi lavora nei consultori prevedere la seconda fase dell'apporto farmacologico a casa altrettanto snellirebbe i servizi, la fornitura del servizio lo renderebbe molto più accessibile e anche più facile per chi ci lavora. Quindi aspettiamo diciamo un'azione formale, una determina, un'azione formale dell'assessorato, ma ci sono tutte le condizioni affinché il consenso e già anche discussioni operative, perché possa essere fatto in tempi brevi. Quello su cui spingiamo è che i tempi brevi siano effettivamente adesso realizzati e la nostra richiesta è che sia fatto entro il mese di giugno, quindi di accelerare il più possibile la ratifica di questi interventi.